La vita non è un cammino semplice e lineare, lungo il quale possiamo procedere liberamente e senza intoppi, ma piuttosto un intricato labirinto attraverso il quale dobbiamo trovare la nostra strada. Spesso smarriti, spesso confusi, talvolta imprigionati in un vicolo cieco. Ma sempre, se abbiamo fede, si aprirà una porta. Forse non quella che ci saremmo aspettati, ma certamente quella che alla fine si rivelerà la migliore per noi. Corny. Cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Non temere di percorrere una lunga strada se sei diretto verso coloro che hanno qualcosa da insegnarti. Isocrate. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Cammino di Gigi D'Agostino. Un piccolo paese fuori dal mondo. Tutti che mani verso la console, forza, tutti col folklorista, dai! Benvenuti nel nostro giardino. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. Allacciate bene le scarpe e toglietevi cappello e sciarpe. Gigi D'Agostino saluta con una pennellata e un colpo di martello Antonella e Maria Rosaria, Elia da Casei Gerola. Suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Agi, appiccia un po' e andiamo, dai. Sì, ho capito. Per le dediche e le richieste, i messaggi e le proteste. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Precisazzi. Disco non si commenta proprio. Il cammino di Gigi D'Agostino. Chi lo ha detto che se uno ti tende la mano tu gliela devi per forza stringere? E se poi quello lì ce l'ha sudata, che schifo. La dovete smettere di dare la mano sudata. Salutate con un sorriso. È più sano. Tu.

Il cammino di Gigi D'Agostino. Ciò che tu sei che ti frena, ma ciò che tu pensi di non essere. Dennis Whately. La mia ragazza Nadia non vuole più stare con me, ma non so perché non me lo vuole dire. Martino. Gigi, puoi mettere Fasten? Ci serve un po' di legna per tanzare. Gigi e Giuseppe da Caserta. E basta chiedere, io sono qua apposta. D'Agostino. Musica che unisce. Da Torino. Vorrei dire al mio bimbo che lo amo da morire e che lo voglio sposare al più presto. Di perplessità. Mando la pubblicità. Non ti piacciono i salumi e neanche la mortadella? Ascoltati la campanella. Ma era per fare la rima. Il cammino di Gigi D'Agostino. Sono perduto. È tutto quello che so. Spettacolo, frate. Ah.

D'Agostino. Sì, Aria. Sì. Aria. Fermamosi un momento. Parte lento, violento. E vi... un momento. Il cammino di Gigi D'Agostino, una grande famiglia danzante. Un animo forte è quello che anche nelle più forti emozioni non perde il proprio equilibrio interno. Il 29 dicembre del 1891, Thomas Edison brevetta la radio. Levantati. Il cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colori. Gigi D'Agostino saluta con una pennellata e un colpo di martello Manuel di Serrenti, Francesco da Como, Panez da Udine. Ma ciao proprio. Todo e todos, cada hombre y todos los hombres. Todo e todos, todos los hombres en cada hombre. Todo en todos.

ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. La vita è più bella quando suona la campanella. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. La notte di Capodanno, il 31 dicembre. Ci vediamo a Rimini, discoteca Altro Mondo. Io comincio a suonare alle ore 20, se arrivi tardi ti rigo i denti. Vorrei dedicare ai miei genitori Rosa e Franco la canzone del sogno. Ti prego Gigi, mandalo. Benny 89. Strano nell'aria, forse solo dentro me, una cosa che col tempo varia e non sta ad aspettare. So che il tempo è passato ed io vissuto sempre con te, credo in quel che ho provato ed è quello che vedo. Domandati perché, ricerca nella memoria quello che fu di te. Essere in dubbio, sei uno ostacolo.